9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno, buon giovedì 23 di agosto da Oscar Giannino. Siamo in giornate in cui la benzina shock che sfonda i 2 euro attira, come giusto, attenzione, titolazione e riprovazione. Attenzione dai media, le titolazioni del portale dei giornali, la riprovazione da parte degli italiani. Siamo in attesa dell'ennesimo pacchetto di misure al Consiglio dei Ministri per la crisi. Vediamo se questa volta l'IVA, l'abbattimento dell'IVA sull'edilizia passa oppure no, su cui spera Confindustria e sperano i costruttori. Nel frattempo la Grecia chiede altro tempo. E però la sua richiesta non impressiona né particolarmente intenerisce i grandi paesi europei, da cui Antonis Samaras sta facendo il giro in questi giorni. Oggi François Hollande e Angela Merkel si rincontrano a propria volta proprio per discutere la richiesta greca e per capire che tipo di atteggiamento prendere. Ieri il ministro delle finanze olandese ha dichiarato di non essere certo impressionato dalla richiesta che si aspettava della Grecia e che secondo il suo governo, il governo della Finlandia e il governo olandese, perdonatemi, invece non va assolutamente accolta. Avete visto che Samaras ha detto i tedeschi avranno indietro i loro soldi fino all'ultimo euro, ma comunque ci devono dare una mano e capire che oggi abbiamo bisogno di più tempo. Nel frattempo il governo spagnolo ha pubblicato ieri i dettagli del suo piano per il sostegno ai disoccupati di lungo periodo e il governo è stato costretto, si vede costretto e convinto comunque di ripristinare alcuni dei sostegni che aveva diminuito ai disoccupati di lungo periodo. E Goldman Sachs ieri ha detto di attendersi che la Spagna faccia nelle prossime settimane domanda ufficiale per nuovi aiuti anti-crack. E Standard & Poor's ha aggiunto una propria nota secondo la quale la richiesta ufficiale da parte spagnola non avrebbe un impatto negativo sui ratings. Tanto per capirci, e chiudendo questa finestra di attenzione alle eurocronache, per rimanere sempre avendo sullo sfondo acustico prima Jim Morrison con i Doors e poi il nostro Iannacci, la volta, nel momento in cui la Spagna facesse questo passo, si aprirebbe informalmente il capitolo degli aiuti italiani, ecco, per essere chiari. Quindi, come vedete, le eurocronache fanno restare sullo sfondo tutte le buone o le cattive ragioni per le quali teniamo questa nostra apertura. Nel frattempo, la prossima settimana avverrà il tentativo di, tra virgolette, forzare i tempi della riforma elettorale, perché non è tramontato per nulla il piano del Quirinale di verificare se PDL, PD, UDC sono disponibili a votare a novembre, proprio in questo qua euro quadro che resta un po' complicato, ma che ha incorporato da parte dei messaggi da parte dei mercati una certa convinzione che la BCE sia in grado di sostenere l'attuale andamento al ribasso degli spread. Tanti sono quindi i motivi di preoccupazione e di riflessione, ma oggi noi ci vogliamo occupare di un tema che ieri ci ha fatto grattare un po' la testa, e questo tema è l'orario di lavoro. Ma prima di arrivare a dirvelo, sono obbligato a dirvi anche che nella giornata di ieri abbiamo avuto una piccola soddisfazione che vedremo se si concreterà per il tema di cui ci siamo occupati ieri. Il tema di cui ci siamo occupati ieri era la fine confermata da parte dell'Agenzia delle Entrate dello stop allo assolvimento dei debiti fiscali nelle aree colpite dal terremoto. Abbiamo nella puntata di ieri sollevato la questione chiedendo al governo con la voce delle imprese tornare su questa posizione dell'Agenzia delle Entrate. Il ministro Cancellieri ieri pomeriggio ci ha risposto che lei è d'accordo e che questo tema dovrebbe andare all'esame del prossimo Consiglio dei Ministri, buttando però la palla poi come al solito all'economia e alla Ragioneria Generale dello Stato. Vedremo se la Ragioneria Generale dello Stato ci metterà in condizioni di ragionevolezza, per così dire, visto che le 3.500 imprese e i 14.000 edifici produttivi abitativi che stanno ancora a terra nelle aree colpite dal terremoto rendono, a mio giudizio, non solo problematica ma anche ridicola l'idea di pagarci sopra l'IMU e le tasse. Bisogna anche in questo caso capire che, a maggior ragione se il terremoto ha colpito aree a così alta vocazione industriale, lo Stato deve comprendere che non può chiedere, ma in questa circostanza deve aspettare, non dico dare, perché per il momento ha fatto più casino che altro, ma almeno deve aspettare a prendere, e comunque faremo il nostro dovere vigilando su quello che ha chiesto il Consiglio dei Ministri, informandone. L'orario di lavoro. Perché ci occupiamo di orario di lavoro? Perché ieri due pagine del quotidiano La Stampa, va sempre reso merito a chi introduce temi all'attenzione, ieri era quotidiano diretto da Calabresi, con due pagine affiancate ieri ci ha fatto tornare a riflettere su un tema: l'orario di lavoro, per così dire, chi lavora di più, chi lavora di meno in Europa. Tendenzialmente negli ultimi anni, facendo le graduatorie comparate degli orari di lavoro nei paesi OCSE, l'Italia era il paese in cui la tendenza alla diminuzione dell'orario medio di lavoro, che in generale si fa per monte ore lavorate per unità di lavoro piene, e quindi è un sistema che statisticamente, per così dire, ha delle imperfezioni, ma comunque, detto tutto questo, l'Italia aveva una media di ore lavorate che era nella tendenza generale al ribasso dei paesi avanzati, che è in atto da diversi anni. Comunque in Italia non si lavorava meno che in Germania e meno che in Francia. Ieri invece La Stampa titola: la settimana dei tedeschi è la più lunga d'Europa, dicendo in Germania un lavoratore su 8 in fabbrica o alla scrivania per 48 ore, 48 ore alla settimana, tenete presente. È una situazione drammatica, scrive La Stampa, la pressione è aumentata in modo folle, molti sono sovraccarichi di lavoro, e la tendenza della Germania alle prese con ordinativi molto forti in questi ultimi due anni, in cui la sua economia andava molto meglio di quella dei paesi eurodeboli, era quella che più era elevata ed è elevata l'età media del lavoratore tedesco, più si estende il suo orario anche oltre le 50 ore settimanali. Un quinto circa degli impiegati, il 24,5, ha lavorato anche il sabato. Allora, questo è il primo focus d'attenzione. Secondo focus d'attenzione, un'altra pagina il cui il titolo era: addio weekend, sempre più italiani lavorano al sabato, aumenta anche il numero di chi passa la notte in ufficio, con i lavoratori di notte che in Italia sarebbero l'8,1% sul totale dei dipendenti, Germania 9,6, ma Francia 7,5 e così via. I lavoratori di sabato come percentuale di dipendenti sul totale degli occupati che lavorano abitualmente il sabato in Italia sarebbero il 30%, e in questo caso in Germania solo il 24,5%, quindi saremo alla testa della graduatoria. Lavoratori alla domenica in Italia l'11,9%, in Germania il 13,5%, nei Paesi Bassi il 16,6%. Ed ecco però che nella stessa pagina in cui si dice che gli italiani tendono ad avere orari di lavoro allungati sempre di più al sabato e alla notte e alla domenica, compare poi una tabella delle ore settimanali lavorate, nelle ore settimanali lavorate, in cui si dice il contrario di quello che si dice nella pagina a fianco, in cui si dice che invece la settimana dei tedeschi è la più lunga d'Europa. Perché nella pagina a fianco dello stesso quotidiano l'Italia vede una media delle ore settimanali lavorate da tutti gli occupati pari a 37,5 e la Germania sta invece a 35,5. Allora, tentando di capire come stanno le cose, cioè se aveva ragione la pagina a sinistra della stampa che dice che la Germania ha la settimana lavorativa più lunga d'Europa, o se la pagina a destra, in cui invece si diceva che in Italia si lavora di più di quanto non avvenga in Germania, riflettiamo tutti insieme sul fatto di come vadano in realtà i due sistemi del lavoro, perché poi come sempre poi le statistiche sulle ore lavorate hanno delle falle, questo mi tocca dirlo. E allora tentiamo di capire innanzitutto in questa prima parte, da Tobias Piller, che è corrispondente della Frankfurt Allgemeine dall'Italia, innanzitutto nella sua esperienza da lunghi anni in Italia, ma pur sempre con radici solidamente tedesche, se allo stato attuale sia vero o meno che questa settimana di lavoro dei tedeschi è tornata a essere la più lunga d'Europa, o se invece ha un fondamento il fatto che nella tendenza generale al ribasso in Italia in realtà non si lavorava di meno che in Germania. Che ci dici, Tobias? In generale, buongiorno. In generale trovo così che le riforme in Germania hanno portato a una settimana lavorativa più lunga e anche a più flessibilità del lavoratore o dipendente di fronte alla propria azienda, per varie ragioni. Da un lato, così c'è meno copertura nel caso di disoccupazione, così ognuno ha paura che 18 mesi o 12 mesi dopo il licenziamento sta davanti al nulla, allora bisogna tenersi bene il posto di lavoro. Poi anche tutti hanno anche il pensiero della competitività e produttività della propria azienda e del proprio paese per salvare i posti di lavoro e anche i salari. In questo senso certamente si è molto più disponibile a lavorare più ore, e quando le aziende o anche le amministrazioni pubbliche dicevano bisogna lavorare di più o fare questa o quella cosa, venire sabato, avere turni più flessibili, certamente c'è più disponibilità. Così all'amministrazione pubblica hanno tolto le tredicesime, ma allo stesso momento hanno detto che dovete lavorare 2 ore in più ogni settimana. E poi certamente mi sembrano un po' falsificati questi paragoni, perché ufficialmente dell'amministrazione italiana lavora il sabato, e questo poi sta a voi accettare quanto è vero, produttivo, necessario. Mentre amministrazioni tedesche lavorano 5 giorni la settimana per quelli che lavorano in ufficio, ma con orari molto più lunghi. Nel commercio resta questa tendenza generale, che è evidente più o meno negli anni a chi girava per le città tedesche, che in realtà gli orari sono più flessibili e le aperture sono più estese in Italia che in Germania, o no? O è cambiato qualcosa? La domenica è molto più protetta in Germania anziché in Italia. Dall'altro lato ci sono poi dei posti di lavoro molto più flessibili che in Italia, anche a causa di riforme sul mercato del lavoro, così ci sono anche molti posti precari, ci sono anche così anziani, sessantenni, che tornano a lavorare per arrotondare o per arrivare all'età della pensione. Allora, Roberto Giovannini, che è un giornalista, un collega della Stampa, e che ieri in realtà firmava appunto la pagina in cui si occupava degli italiani che lavorano sempre più il sabato e la domenica. Però intanto ti chiedo, la lettura incrociata di quello che scriveva a me faceva concludere che nella media, con tutte le approssimazioni del caso, ma nella media del totale monte ore per unità di lavoro piene, le cosiddette ULA, restiamo però in testa rispetto a quanto mediamente si lavora in Germania. Ho capito bene il combinato disposto delle vostre due pagine di ieri, Roberto? Esattamente, intanto buongiorno a tutti. Era la domanda che ponevi alla fine del tuo ragionamento, se ragiona la pagina di sinistra o la pagina di destra. Ovviamente non posso che rispondere, hanno ragione tutte e due, nel senso che se calcoliamo soltanto i dipendenti a tempo pieno, allora ha ragione la pagina di sinistra e sono più operosi i tedeschi. Il problema è che in Italia, così come ha detto il collega Piller, in Germania sono state fatte molte riforme, come sappiamo, del mercato del lavoro, e quindi abbiamo delle forme di attività molto varie, fra cui per esempio i part-time, che per esempio in Italia sono dei part-time quasi sempre anomali, nel senso sono molto lunghi e molto simili a lavori a tempo pieno. Il risultato è che se consideriamo le ore lavorate, ovviamente parliamo di una statistica generale come risultati di precedenza, e quindi un caveat ci vuole perché non è detto che sia proprio precisa, ma insomma considerando grossolanamente tutte le ore lavorate da tutti i dipendenti italiani, compresi i precari, alla fine noi diciamo torniamo un po' più in alto in classifica, superiamo la Germania, almeno secondo questa elaborazione che abbiamo fatto noi, sempre però molto lontani dai poveri greci che sono quelli più operosi di tutti. Che in teoria, infatti, come ore settimane lavorate sono a 42,1 rispetto alle 37,5 che sono nella classifica che pubblicavate ieri, e con la Germania 35,5. Ma al di là di questa interpretazione, perché naturalmente arrivano immediatamente gli sms di chi chiede ma le ore autorizzate in CIG eccetera eccetera sono dentro, sono fuori e così via, al di là di questo, le considerazioni che svolgeva Tobias Piller sul fatto che l'impatto delle riforme, stiamo parlando di pacchetti Hartz tra il 2003 e il 2006-2007 in Germania, ha avuto sull'organizzazione del mercato del lavoro, sulla propensione quindi a modificare accrescendo l'offerta di lavoro e la disponibilità nella domanda di lavoro da parte dei lavoratori ad assecondare una accresciuta domanda di lavoro da parte delle imprese. Ecco, tutto questo, se dovessimo guardare la situazione occupazionale oggi dell'Italia, chiedo sempre a Giovannini, che lezione possiamo trarre da questa risposta che hanno dato i lavoratori tedeschi, che erano molto meno flessibili in realtà dei nostri quanto a turnazioni e orari di lavoro all'inizio degli anni 2000, quando la Germania era il grande malato d'Europa, e che oggi, almeno giudicare da quanto pubblicavate voi ieri, ma anche dall'evidenza poi dell'andamento dell'economia tedesca in questi due ultimi anni, hanno avuto una reazione in un numero di anni tutto sommato limitata, molto elevata rispetto alla variazione delle regole del gioco organizzative del lavoro. Ecco, secondo te, Gianni, guardando la realtà italiana, che ha un sindacato che non è unitario come Lega e Metal, ma che ha una tradizione di pluralismo molto più elevata e forte, e con pezzi di sindacato che da questo punto di vista, la vicenda Fiat lo dimostra, hanno una propensione a vivere in maniera più antagonista il rapporto all'interno delle imprese. Ecco, ma se c'è qualche cosa su cui riflettere, visto che abbiamo riversato solo su una parte del mercato del lavoro, lo ricordavi anche tu, perché poi c'è chi è soggetto, una generazione intera, a dei contratti che sono poi meno tutelati e che in termini di orari medi e di utilizzo utilizzo notturno o ultrasettimanale sono largamente disallineati rispetto alla media dei lavoratori tutelati. Ma la lezione da trarre, riforme tedesche e situazione italiana attuale, secondo te qual è? Allora, beh, premesso che mi fai la domanda da $1 miliardi e quindi insomma mi dissocio da quello che dirò, nel senso che è molto complicata rispondere, ma io la mia impressione è questa. Intanto volevo dire che noi abbiamo provato chiaramente a verificare com'era in precedenza la situazione italiana, sempre in questi tipo di elaborazioni che abbiamo fatto. Purtroppo c'è stato un cambio di metodologia statistica, quindi non era comparabile. Comunque, a sensazione, anche in Italia diciamo i pacchetti Treu e poi Biagi, chiamiamoli così per sinteticità, delle conseguenze l'hanno prodotto da questo punto di vista. Nella nostra elaborazione, per esempio, sul sabato noi siamo aumentati tantissimo dal punto di vista di percentuale dell'occupazione del dipendente impegnato appunto il sabato. La domenica no, ma lo sappiamo che non si può per ragioni, diciamo, come si può dire, insomma, la Chiesa reagisce molto da questo punto di vista. Bisogna dire che quindi dei cambiamenti ci sono stati, nonostante l'assetto sociale, politico e sindacale, che come ricordavi tu è molto differente. C'è da dire che a luglio è stata appena approvata una riforma molto articolata e anche molto discussa del mercato del lavoro, quindi probabilmente altri cambiamenti li vedremo. Non è facile anticipare quale sarà la tendenza. Io ho l'impressione che però tendiamo a uniformarci alla tendenza tedesca, insomma, nel senso di un aumento della, chiamiamola, flessibilità in generale, perché questo credo sia una tendenza anche più che in cui, come dire, il macro fenomeno economico e sociale, cioè il fatto che per esempio i consumatori, le persone vogliono fare la spesa il sabato e la domenica, tanto per fare un esempio, è una tendenza, diciamo, io credo irreversibile, quindi io credo tenderemo a uniformarci nonostante queste differenze che ricordavi. Ecco, quindi nella tendenza a uniformarci bisogna poi vedere naturalmente qual è la conseguenza in generale, anche qui con l'approssimazione, per la media dei lavoratori italiani. In realtà la media non c'è, il mercato del lavoro italiano è disarticolato secondo condizioni molto asimmetriche. E poi vedere qual è l'impatto nelle vite degli italiani. Tenete conto che siamo un paese in cui i problemi di conciliazione, non solo tra reddito disponibile in diminuzione, ma anche su come è organizzato l'orario di lavoro, su cose fondamentali tipo la propensione a formare un nucleo familiare, tipo la numerosità dei figli per famiglia, in relazione poi anche alla media di età anagrafica in cui si mette in piedi una famiglia o si tenta di fare un figlio, testimoniano una grande torsione, una grande problematicità, e quindi queste cose hanno un impatto poi molto pesante nella vita concreta degli italiani. Sono forse uno dei criteri attraverso i quali vedere come cambia una società e se una società, al di là, ripeto, del patrimonio e del reddito, funziona in termini di equità oltre che di efficienza, meglio di prima o peggio di prima. Perché quando Roberto Giannini ci dice tendiamo, sia pure con tutte le caratteristiche italiane, i ritardi italiani, il vischio italiano, ma ad assecondare e a uniformarci a una tendenza in cui l'organizzazione del lavoro va sempre di più la notte, il weekend, il sabato e la domenica, e lo facciamo però in maniera asimmetrica, questo è il punto, e lo facciamo magari con la parte del mercato del lavoro che tende ad assorbire questi cambiamenti con meno incentivi sia di reddito disponibile che di ottimizzazione della parte di reddito disponibile premiale, mentre invece queste seconde cose sono riservate ai più tutelati, che rimangono con un orario di lavoro invece diverso, meno elastico e meno distribuito sulle ore del giorno, sul numero di giorni a settimana e sulle settimane l'anno. E tutto questo poi ci descrive un paese che non è detto, nell'uniformarsi l'elasticità, riesca a vivere meglio, ma potrebbe addirittura vivere peggio. E subito dopo la pubblicità torniamo esattamente su questo punto con un altro ospite che si è aggiunto, Domenico De Masi, ordinario di sociologia del lavoro all'Università di Roma La Sapienza. Anche lui non ha bisogno di presentazioni. Ma qual è la relazione tra monte ore settimanali lavorate, media delle ore settimanali lavorate e produttività? No, sono due cose completamente diverse, perché voi capite che per esempio per effetto dei pacchetti 3 EU, come ricordava il collega stampa Roberto Giovannini, anche noi abbiamo avuto negli anni successivi al 2002, negli anni 2002, 2006, 2007, abbiamo avuto una risposta positiva da parte del mercato del lavoro, grazie alla maggiore flessibilità dei pacchetti TREU. Noi abbiamo diminuito la disoccupazione e aumentato la partecipazione al mercato del lavoro, anche queste sono due cose diverse, ma che cosa è avvenuto? È avvenuto che l'accrescimento del totale degli italiani al lavoro non ha coinciso con un aumento della produttività. Il più delle unità di lavoro aggiuntive, grazie ai pacchetti TREU, è stata in tipi di occupazione a bassa produttività, non ad alta produttività. Abbiamo in quel caso fatto una scelta anche per il ritardo del sistema produttivo sugli investimenti a più alto valore aggiunto, eccetera, eccetera. Erano nei primi 3-4 anni dell'euro la parte che oggi esporta e riesce ad andare meglio piuttosto a quella del mercato domestico, che invece va peggio, era ancora nel pieno del fronteggiare gli effetti dell'ingresso nell'euro e del venire meno della svalutazione monetaria. Ma per effetto di tutta questa roba qua si può benissimo avere ore settimanali lavorate, come in Grecia che è in testa alle graduatorie, molto più elevate dei tedeschi. Questo non significa affatto essere più produttivi, che è tutt'altra cosa, ovviamente dipende dalla quantità di capitale medio investito per unità di lavoro e dal suo ritorno, ovviamente dal ROI del capitale investito per lavoro, dipende da come è organizzato il lavoro. Si può lavorare anche molto, ma se il lavoro è organizzato male resta poi ovviamente poco produttivo. Su questo sfondo siamo arrivati al punto di capire che però, ci diceva Roberto Giovannini, anche in Italia l'addio al weekend, perché bisogna lavorare al sabato, bisogna lavorare la domenica, bisogna lavorare di più la notte, a lavorare di notte in Italia è l'8,1% dei dipendenti sul totale degli occupati, ecco, tutto questo ha anche delle conseguenze naturalmente poi nella vita di ciascuno di noi, nella società italiana. Domenico De Masi, buongiorno e grazie innanzututto di essere con noi. Buongiorno a lei. Che pensa lei in generale? Lei è uno che spesso ci fa riflettere, perché dice: piantatela un po', teorici della crescita e della produttività, perché guardate che tutto questo si produce conseguenze diverse da quelle che dite, è molto problematica. Ecco, rispetto a questa tendenza, flessibilità negli orari, eccetera, eccetera, la sua opinione qual è? I dati che abbiamo ascoltato fin qui ci inducono a dire che più si lavora, meno si è produttivi, c'è poco da fare. Questo è il rapporto che viene fuori dalla comparazione dei vari paesi. Io credo che l'origine un po' dell'equivoco sia nella parola lavoro. Noi un'unica parola, cioè lavoro, per indicare realtà che un tempo erano uniche, diciamo, perché il 90% dei lavoratori era operaio alla catena di montaggio, diciamo, e che oggi invece nasconde realtà diversissime. Diciamo che un minatore lavora, che un metalmeccanico lavora, che un giornalista lavora, che un professore lavora, che uno scienziato, un artista lavorano. Ora, queste sono realtà diversissime che non possono assolutamente essere comparate. Noi abbiamo in realtà oggi un terzo dei lavoratori che svolge attività fisiche proprio come quelle, diciamo, della Manchester dell'Ottocento. Poi abbiamo un terzo dei lavoratori che svolge lavori intellettuali ma ripetitivi, per esempio il casellante che ritira il pedaggio al casello autostradale. E poi abbiamo un terzo di lavoro che è come quello che stiamo facendo in questo momento tutti noi, che è di carattere creativo. Questi tre tipi di lavoro hanno un rapporto completamente diverso con l'orario. Mentre a una catena di montaggio tot minuti producono tot bulloni, non è detto che per un giornalista tot minuti producano tot articoli e di buona qualità. Quindi bisognerebbe sconvolgere completamente le nostre categorie del rapporto tra lavoro e non lavoro. Io ho sempre sostenuto che nel caso del lavoro intellettuale, ormai il 70% quasi dei lavoratori sia in Italia che in America, sia in Germania, la quantità di lavoro è nemica della sua qualità. E primo. In secondo luogo ci sono tipi di lavoro in cui è assolutamente impossibile scindere il lavoro dal non lavoro. Se io vado al cinema, vedo un film, ma nello stesso tempo prendo idee che so per una mia lezione, allora sto lavorando o non lavorando? provocatoriamente io dico che sto facendo ozio creativo, in realtà è qualcosa in cui studio, lavoro e gioco si sommano, si intrecciano ed è impossibile dire quale lavoro e quale non è lavoro. La differenza tra Germania e Italia, la più importante, è che i lavoratori intellettuali in Germania alle 5 del pomeriggio escono dall'azienda, mentre da noi restano per almeno 2 ore di overtime. Abbiamo 2 milioni di persone in Italia che restano in ufficio per ore dopo il lavoro, non si sa fare che cosa, per cui il lavoro è tutto sfrangiato, è tutto diluito dalla mattina alla sera e tutto questo, tra l'altro 2 milioni di persone che fanno 2 ore in più al giorno nell'ufficio tolgono lavoro a circa 500.000 poi persone che sono disoccupate. Bisogna rivedere il tutto e a me pare che quelli che hanno lavorato poco in questo sono stati i gestori delle risorse umane delle aziende, mentre i gestori della pubblicità, i gestori della finanza, eccetera, hanno modificato tutti i loro parametri, i loro paradigmi. La gestione delle risorse umane viene ancora basata sul controllo, sulla quantità, sulle ore, laddove invece il rendimento è per obiettivi. È il motivo per cui in Italia, per esempio, facciamo poco telelavoro. Si vuole tenere il lavoratore per tot ore in un certo ufficio senza capire che magari uscendo farebbe lavoro molto migliore, avrebbe molte più sensazioni, molti più spunti per la propria creatività. Quindi bisogna ricominciare, secondo me, da capo. Il lavoro intellettuale, 70% dei lavoratori, è qualcosa in cui il discrimine tra lavoro e non lavoro, tra tempo libero e lavoro è completamente caduto. Le tecnologie che abbiamo e la globalizzazione operano ulteriormente in questo senso e quindi bisogna rivedere le nostre categorie. La quantità ormai dice soltanto cosa avviene in un terzo del mercato del lavoro. Allora, anche perché se andiamo a vedere la quantità, una dei criteri di scomposizione e di analisi che proponeva Roberto Giovannini nel suo articolo di ieri era quello delle ore medie lavorate anche nelle diverse regioni italiane. E se prendiamo semplicemente la media senza scomporre, come propone Domenico De Masi, per diversi segmenti, per tipi di attività, ma ci occupiamo solo della media generale, ecco lì la media non sarebbe proprio a conferma, o lo sarebbe un po' problematicamente, di quello che ci diceva De Masi adesso, che in realtà più si lavora meno è produttivo, perché seguendo questo criterio, se non sbaglio, Giovanni ieri diceva che nelle diverse regioni italiane quelli che lavorano di più di tutti sono i valdostani con 38,4 ore a settimana, seguite però di poco dai campani e dai piemontesi insieme. Quindi insomma, Giovannini, quello che ci dice De Masi è, al di là del fatto che queste medie forse non dovremmo noi per primi utilizzare, gli economisti del lavoro è ovvio che le devono utilizzare, però noi per primi come operatori dell'informazione dobbiamo sforzarci di rivolgerci a un pubblico che non ha presente bene quali sono le specifiche tecniche di questi indicatori statistici, e dovremo tentare di spiegare invece al nostro pubblico che appunto oggi il lavoro indifferenziato non c'è più, che le metodologie di organizzazione del lavoro, che forse hanno ancora senso in alcune parti della produzione, il sistema attraverso il quale per esempio Fiat, il World Class Manufacturing, propone di riorganizzare in Fabbrica Italia, in quello che si può fare di Fabbrica Italia, abbiamo capito, secondo criteri che sono di qualità, efficienza, lì è ancora fatto con il vecchio criterio dell'ottimizzazione del tempo per unità di capitale e per addetto impiegato rispetto all'ottimizzazione dei tempi e dell'output quantitativo. Ma ci dice De Masi, questa è una roba che riguarda ormai solo una parte piccola del totale del lavoro, e quindi le aziende, gli organizzatori del lavoro rimangono un po' indietro rispetto al fatto che una diversa flessibilità nell'orario, nei turni eccetera, dovrebbe tenere presente che ha un ritorno di produttività anche estraneo ai vecchi sistemi di misurazione quantitativa. poi andiamo alle conseguenze di cosa vuol dire per gli italiani, ma questa analisi che ci fa De Masi, che quindi tende a complicare la vita a chi poi deve spiegare ai lettori, agli ascoltatori, se davvero chi lavora di più è più produttivo, se è un bene lavorare di più oppure no. Abbiamo avuto un inutile riproposizione qualche giorno fa del tentativo di dire aboliamo qualche festa e qualche giorno di lavoro in più sul totale annuo aumenterà prodotto e produttività italiana. Ecco, ha ragione secondo te De Masi, e noi dobbiamo diventare più bravi a semplificare ma a spiegare la complessità al nostro pubblico, oppure no, Roberto? Io sono assolutamente d'accordo con De Masi, diciamo il problema è che nel caso specifico dell'articolo che ho scritto mettere quella premessa che appunto ci ha illustrato De Masi sarebbe significato dire questo articolo non ha senso. Quindi... per questo te lo chiedo, perché purtroppo è un po' così. No, ma è assolutamente così. Diciamo, riflette, come giustamente diceva De Masi, appunto c'è un ritardo dal punto di vista della comprensione della nuova realtà da parte dei gestori delle risorse umane nelle aziende. Se pensiamo alle misure che prese Brunetta all'inizio, no? I tornelli, eccetera. Ora, se vogliamo, da un certo punto di vista, comprensibili, no? O comunque in un clima politico e sociale di un certo tipo, però farli stare per forza a non fare niente o a fare poco, no? Non sembra molto utile. In teoria bisognerebbe cercare di cambiare il modo di lavorare alla pubblica amministrazione. Esatto, cioè di capire che cosa fanno davvero e poi vedere anche qual è il tempo migliore in cui farglielo fare, esatto. Sì, quindi diciamo, io sono assolutamente d'accordo come dire, accetto questa contraddizione in seno al popolo creativo, insomma, probabilmente sì, bisognava fare un lavoro diverso. Io avrei dovuto personalmente fare un lavoro diverso, però in questo caso avevo, come dire, il compito di scrivere non mi sto giustificando. Ma anche io non volevo fare il problema, perché io per primo che dico una delle componenti della produttività non è solo la quantità di lavoro ma è anche il tempo, naturalmente maneggio con cura questa cosa, perché a costo di sembrare noioso, un po' troppo tecnico, tento sempre di ricordare a me stesso che devo spiegare a chi mi ascolta che non lo sto semplicemente dicendo lazzaroni italiani, non lavorate abbastanza, se lavorate tutti di più noi diventiamo in termini di prodotto e produttività come i tedeschi. No, devo tentare di spiegargli che la componente ore, giorni, mesi di lavoro comunque ha una conseguenza sul prodotto. Naturalmente dipende poi da come è organizzata secondo le regole del mercato del lavoro e nelle aziende, con quali incentivi e che impatto ha poi sulla vita complessiva della gente. Questo diventa sempre più complicato e questo è il problema, secondo me, noi che facciamo informazione, a nostra volta ciascuno è titolare poi di un punto di vista legittimo sui tipi di leggi che sono utili, su come è organizzato il sindacato, però non dobbiamo perdere di vista il complesso che agli italiani gli dobbiamo arrivare poi con delle cose, innanzitutto che poi su come si descrive quantitativamente la realtà, prima di dividerci con le idee, voglio dire, Roberto, che è da tutto legittimo, dobbiamo ricordarci e ricordare ai nostri direttori, che poi sono loro che decidono insindacabilmente e con pieni poteri i giornali che facciamo, che è complicato ma è nostro dovere farlo, perché altrimenti la gente non capisce. E questa era la domanda che mi facevo io e che ripropongo, non attribuendo a voi colleghi della stampa, che avete posto un problema ieri, ma che ripropongo ai nostri ascoltatori oggi, e che come si vede è un po' complicato dire siamo meglio o siamo peggio dei tedeschi. In ogni caso siamo con regole diverse, loro le hanno cambiate e hanno ottenuto degli effetti, noi le abbiamo cambiate da prima di loro col pacchetto Treu, abbiamo mirato ad alcuni effetti che sono venuti con altre conseguenze negative che poi hanno spaccato l'Italia. Oggi tendiamo anche noi ad avere un'organizzazione più flessibile, i sabati, le domeniche e le notti, però i problemi restano molto elevati e comunque andiamo peggio di loro. Ecco, questa è la mia sintesi conclusiva. E abbiamo qui poi una testimonianza che viene da un'iniziativa al comune di Salerno è stata assunta proprio per venire incontro alle esigenze di giovani coppie di conciliare i tempi di vita con un lavoro che si sta modificando, come ci diceva Roberto Giovannini. E il progetto che c'è a Salerno si rivolge ai genitori di bambini tra i 18 e i 36 mesi e prevede di allungare i tempi di apertura degli asili nido, estendendo gli orari anche al sabato e alla domenica per due notti la settimana dalle 19 alle 24 durante le festività natalizie. E con noi Patrizia Stasi, che è presidente presidente del Consorzio Cooperative Sociali La Rada, che organizza appunto e parte di questa iniziativa assunta al Comune di Salerno. Buongiorno e grazie a Patrizia Stasi. Ha funzionato e come funziona in realtà questa iniziativa? Che conseguenze, che impatti mostra di avere? Innanzitutto buongiorno a tutti. Dimostra di avere in realtà una flessibilità che si adatta bene agli orari di lavoro, ma anche della vita delle donne, perché gli orari soprattutto serali, soprattutto festivi, in realtà in questa città vengono svolti prevalentemente dalle donne, perché sono quelle che hanno contratti più precari rispetto agli uomini. Con il Comune di Salerno abbiamo immaginato l'anno scorso, in seguito ad una ricerca sul territorio, di aprire i nidi anche nelle festività natalizie, di allungare gli orari dei nidi, per cui i nostri nidi comunali chiudono alle 19 la sera per permettere ai lavoratori di svolgere tutto il loro tempo lavoro, e poi per due giorni la settimana, come lei diceva, il venerdì e il sabato dalle 19 alle 22 permettiamo ai genitori sia di lavorare la sera o la notte, come prima si era detto, sia di concedersi anche un momento di libertà di coppia, in modo da garantire anche una possibilità di fruizione del tempo libero. Come funziona? La richiesta è tantissima, anche al di sopra delle aspettative della ricerca territoriale, perché i bimbi che rimangono nei nidi, sia in preaccoglienza, in post-accoglienza e anche negli orari serali del venerdì e sabato, sono tantissimi, al di sopra appunto dei dati rilevati. Quindi in realtà l'esigenza delle famiglie di avere servizi flessibili che si adeguino ai loro tempi di lavoro e di vita sono davvero incredibilmente alti. Ecco, naturalmente questo è stato un esperimento pilota, il sindaco di Salerno quando lo annunciò, noi lo abbiamo trovato per esempio nel portale delle esperienze d'eccellenza dei comuni italiani dell'ANCI, chiarì bene che ovviamente il limite è che rispetto ai pochi milioni che il comune di Salerno può spendere per servizi di questo tipo, era un tentativo per dimostrare come si può rendere flessibile l'offerta organizzativa degli asili pubblici, perché dice sicuramente c'è una domanda da soddisfare in questo, ed è quello che ci dice Patrizia Stasi, la conferma che è così, e quindi il settore pubblico dovrebbe sempre più indirizzarsi verso una capacità di offerta di servizi di questo tipo. Tanto più non lo fa, tanto più la flessibilizzazione di turni, orari e modalità del lavoro ha impatto ed è a carico solo naturalmente del reddito disponibile e della devastante bassa qualità di vita di una generazione a cui carico abbiamo messo tutta la flessibilità. Caterina da Como, che dice Caterina? Che esperienza ha? Buongiorno. Io sono stata operaia e ho fatto gli straordinari, e sinceramente le dirò che gli straordinari si lavora poco. Poi vorrei dire anche una cosa, che anche la stanchezza fisica incide sulla concentrazione, sul cervello, non solo il lavoro intellettuale. Ah beh, certo, certo. Quando si è arrivati a un livello di stanchezza non si riesce più a rendere. Poi volevo dire, per quanto riguarda il pubblico, ci sono persone che lavorano 6 ore al giorno. Per quanto riguarda lo Stato, diciamo. Sì, sì, sì, chiarissimo. 6 ore al giorno e in più non lavorano o fanno pochissimo. E questo bisognerebbe prendere dei provvedimenti molto, molto, ma molto seri. Caterina, io sono d'accordo, però sa, i tornelli è dentro, abbiamo capito che non servono, come io sono d'accordo con Roberto Giovannini in questo. Il problema è che invece che assumerli per clientela, dovremmo fare una riflessione su quanti ne abbiamo davvero bisogno e organizzare il meglio possibile il loro lavoro rispetto a tempi, ma con obiettivi di produttività soprattutto misurabili ex ante ed ex post, a cominciare dalla dirigenza in questo, perché poi altrimenti ci dimentichiamo che se una dirigenza non è fatta con obiettivi affidati ex ante, verificati ex post e che abbiano un elevato impatto per esempio sulla struttura remunerativa, beh, è un po' difficile pretenderlo poi dai dipendenti, se non è innanzitutto a cominciare da chi guadagna molto di più e dalla responsabilità poi organizzativa, gestionale, eccetera eccetera. Giordano da Salerno, prego Giordano. Buongiorno, innanzitutto un complimento quindi per le sue capacità. Allora, volevo dire, praticamente io sono un imprenditore commerciale, ho dei punti di vendita a dettaglio, e volevo parlare della forza lavoro nell'ambito della vendita. Sì. È un sistema molto molto molto ingessato e vecchio. Cioè, se io vorrei, se io volessi avere un rapporto di lavoro con una persona che ha delle belle capacità e vorrei fare un contratto a provvigioni, praticamente in Italia è impossibile. Cioè, quindi se c'è una persona che vuole lavorare, cioè io se vendo tanto mi dai tanto, praticamente questo non è possibile. Ho degli amici miei che hanno delle attività in America questo è possibile, come è possibile praticamente anche nell'artigianale, i barbieri. Se in un barbiere entra una persona che vuole lavorare lì, concorda con il titolare, diciamo, un fitto per una sedia, e lui paga il fitto di quella sedia e dividono anche gli introiti relativamente al suo lavoro. Cioè, tutto questo in Italia è praticamente impossibile. Quindi siamo molto molto vecchi sotto questo aspetto. Giordano, io credo che tu abbia ragione. Questo è un problema che riguarda anche le rappresentanze delle associazioni d'impresa, perché la rigidità nasce da due parti: dal pubblico che non capisce, ma anche dalle forze dell'impresa che tendono a tutelare vecchie modalità. Come vedete, dietro gli orari ci sono un'infinità di problemi. Io ringrazio De Masi, Giovannini, Patrizia Stasi, voi tutti, e vi do appuntamento a domani mattina. Radio 24, la passione si sente.